E questo può sembrare una banalità, ma questi sono chiari segnali di come in Italia, ecco, una via messicano-colombiana a stabilire i rapporti di schiavitù nel mondo di lavoro, la soppressione dei diritti sindacali e, diciamo, ogni forma di violazione del diritto proprio alla dignità umana e del lavoro. Sono chiari segnali che dovrebbero farci riflettere complessivamente a tutti quanti, dalla realtà sindacale alle realtà politiche, e di come, diciamo, questo nuovo scenario politico, diciamo, con la riforma Draghi, le visioni internazionali, insomma, i dettami della BCE, del Fondo Monetario Internazionale, diciamo, stanno coinvolgendo l'Italia pienamente, a discapito di tutte le lotte, le conquiste sindacali, dei diritti operai che, diciamo, ricordiamo, negli anni e nei decenni precedenti diedero dignità al lavoratore, diedero dignità al senso proprio del lavoro, a discapito di oggi che invece tutte quelle conquiste rischiano di rimanere nel dimenticatoio della storia. Va tutta la solidarietà quindi da parte di tutti i compagni e le compagne di Salerno, il centro sociale, dell'associazione, tutti, che, diciamo, sono stati oggetto di questa ennesima aggressione. Ribadiamo che è già la seconda volta che succede nei centri della grande distribuzione. E niente, parliamo dell'America Latina. Parliamo dell'America Latina, e tanto è vero, il titolo è L'America Latina nella morsa del trumpismo e del ritorno dell'aquila imperiale di Biden. L'intera America Latina, l'intero continente dell'America Latina è di fronte a scenari che potrebbero mettere in discussione le politiche neoliberiste e neocolonialiste, che specie con la pandemia hanno messo a nudo tutte le nefandezze derivanti da esse. E noi sappiamo bene, le nefandezze sono le privatizzazioni della sanità, della scuola, il lavoro schiavista, l'aumento della povertà, lo scempio ambientale, le restrizioni delle libertà ed agibilità politica e sindacale, che sono state queste, che sono queste alla base delle rivolte che, specie nel biennio 2019-20 e primo semestre 2021, stanno sconvolgendo i vari stati latinos. E in questo quadro di scontro sociale e di classe sono da attenzionare anche le scadenze elettorali, come in Perù, che ha visto vincente il Castillo della lista di una lista di sinistra in Messico. E poi, diciamo, a novembre, ricordiamo, ci saranno le elezioni in Nicaragua, dove sono già cominciate le pressioni extra nicaragüense, e fra 16 mesi toccherà al Brasile, da cui esito elettorale è chiaro che uno spera con la caduta di Bolsonaro, diciamo, quindi conflitti sociali e, diciamo, anche forme istituzionali elettorali potrebbero riscrivere una nuova pagina in un'area geopolitica martoriata e soffocata dalle politiche colonialiste yankee e lobbiste, che anche in piena pandemia continuano nell'opera di devastazione e di impoverimento di un continente ricchissimo quale l'America Latina, dove però solo il 30% della popolazione gode dei diritti, a discapito del restante 70% che si barca mena tra precarietà e povertà, che tra l'altro in stati governati dalla destra, con un buon numero all'interno di cui governi ci sta un buon numero di nostalgici delle varie dittature e formazioni politiche che sono espressione del binomio crimine-impresa. Ed è chiaro sempre ricordare come a determinare il quadro sopra, diciamo, ha contribuito l'elezione a Presidente della Repubblica del Brasile Jair Bolsonaro, che ricordiamo è un ex ufficiale dei paracadutisti, con un programma politico che era un vero copia e incolla di quello del Presidente degli Stati Uniti, del ramanato Trump. E perché è stato importante drammaticamente e negativamente l'elezione di Bolsonaro, perché Bolsonaro ha avuto un ruolo politico determinante, quello di aver nell'area geopolitica dell'America Latina riportato indietro le lancette della democrazia e dell'emancipazione di un continente che, è bene ricordare, divenne all'inizio del XXI secolo un riferimento e un esempio a livello internazionale di modelli economici e relazionali emancipativi attraverso il protagonismo diretto delle comunità, e tutto ciò a dimostrazione che un nuovo mondo sganciato dai dettami neoliberisti era possibile. Vediamo gli effetti del ritorno oscurantista nell'America Latina dopo la sua elezione di Bolsonaro. Non tardarono a farsi vedere e a sentire. Bolsonaro con i presidenti di Argentina, del Cile, Uruguay, Paraguay, Colombia e Perù andarono a comporre un vero e proprio squadrone politico della morte, a cui è chiaro mancava solo il fascista Bolsonaro per completare il quadro a tinte fosche della geopolitica mondiale, dove l'America Latina, ricordiamo, gioca un ruolo molto importante nello scacchiere internazionale. Vediamo che con il voto e l'elezione di Bolsonaro in Brasile si segnò anche un'ulteriore sconfitta anche per quei partiti e leader che vennero definiti dalla cosiddetta Marea Rosa progressista, che investì l'America Latina all'inizio del XXI secolo. Con l'elezione di Bolsonaro a presidente del Brasile furono affidati i destini di una buona parte degli stati latinos al peggio della storia politica latina, oltre che di destra nostalgici, in quanto figli o parenti delle vecchie dittature, sia cilene che argentine, e familiari delle vecchie dittature risultate essere anche coinvolti in scandali e schifezze varie. Non a caso ricordiamoci anche dell'ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, un vero nippo hitleriano, e che mo anche la figlia è coinvolta in scandali e schifezze varie, così come la maggior parte delle famiglie delle formazioni politiche che stanno governando una buona parte dell'America l'America Latina. È chiaro che per questo che abbiamo detto, anche come una sorta di piccola rilettura storica, assumono un significato molto importante le vicende e i conflitti sociali come abbiamo detto prima, si sono determinate nel biennio 2019-2020 e nel primo trimestre 2021, e che è il periodo, il primo semestre 2021, periodo in cui l'America Latina è ancora contrassegnata dalle rivolte contro la povertà, la precarietà, e in cui la pandemia da Covid-19 non ha fatto altro che incrementare e ampliare maggiormente il divario tra ricchi e poveri. E vediamo che le rivolte e le ribellioni contro la povertà, contro la privatizzazione della sanità e della scuola, al di là delle figure storiche, delle organizzazioni sindacali di classe, dei partiti comunisti operai, dei partiti operai, quello che si è visto è stato il protagonismo politico esistenziale delle nuove generazioni, che è veramente con la loro presenza, le loro energie, la loro protagonismo rivolte hanno espresso che queste generazioni aspirano ad avere un futuro e una vita migliore, e nello stesso tempo hanno lanciato un messaggio politico all'intero Occidente sui danni e sui disastri umanitari ed ambientali che provocano e provocheranno le politiche neoliberiste, e queste le abbiamo viste sia nel periodo pre che durante la pandemia. Chiaro, è come al solito, è che diciamo, tutte queste diseguaglianze e precarietà, come abbiamo detto prima, esistevano già prima del Covid nel continente latino, nei vari stati latinos, nei quali in nome dello sviluppo e della modernità sono state consumate e si consumano tuttora le peggiori atrocità e danni all'umanità e dal pianeta. E l'esempio lampante di quanto affermato è la distruzione e devastazione della foresta amazzonica, che ricordiamo essere il polmone verde del nostro pianeta, congiuntamente al genocidio delle tribù indigene, ulteriori vittime sacrificate sull'altare del neoliberismo e del colonialismo capitalista. Ora mettiamo un poco di musica. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va. Millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido. Stavamo parlando appunto delle diseguaglianze, i conflitti sociali, gli scontri in America Latina e diciamo, le fragili democrazie che sono messe a dura prova. Nello stesso tempo abbiamo visto, cioè, ecco, come la, diciamo, le diseguaglianze, le precarietà, diciamo, che stanno alla base delle rivolte, così come anche lo scempio ambientale, abbiamo citato la foresta amazzonica. È chiaro che, per dire, noi abbiamo anche un altro fatto che diciamo è importante, che è appunto sulle fragili tenute democratiche nei vari governi: il Guatemala, il Salvador, il Cile, il Messico, il Perù, il Brasile, la Colombia, che è, diciamo, di fronte alle giuste rivendicazioni, abbiamo detto prima del perché le povertà, le precarietà hanno scatenato i conflitti, gli scioperi. Di fronte alle giustissime rivendicazioni, quindi le proteste, gli scioperi in generale, Hanno risposto, diciamo, gli esempi sono quelli maggior rilievo, quello che è successo in Cile prima e in Colombia, diciamo, questione di fino a pochi giorni fa, hanno risposto con feroce repressione militare, così come, diciamo, destano seri timori le continue minacce di colpi militari, che ricordiamo, la cosa importante, i cui apparati sia militari che politici sono anche la conseguenza dello sdoganamento di Trump, le nostalgiche ideologie della destra fascista sia in America Latina, e l'altro fenomeno anche anche nei vari paesi occidentali. E vediamo che anche il caso ultimo del Perù, così come anche quelle, le minacce in Nicaragua di colpi di Stato, e queste minacce di colpi, diciamo, i timori sono molto seri, e le minacce di colpi, specie nella storia dell'America Latina, ricordiamo le dittature, Pinochet, la dittatura dei generali in Argentina, sono sempre poste come spade di Damocle poste sulla testa delle comunità, di quegli stati latinos e popoli, per impedire ogni forma di autonomia ed emancipazione nei riguardi dell'imperialismo americano, diciamo, queste storie, queste minacce di colpe sono sempre presenti, sono sempre, sono molto, molto serie. Questo è quello che si sta respirando in queste ore anche in Perù, rispetto anche all'esito elettorale, che ha vinto almeno ufficialmente vittorioso Pedro Castillo. È un clima, tanto è vero che in Perù c'è stato l'appello a tutti i movimenti, alle forze sindacali, ai movimenti, di presidiare le piazze, e queste sono ore molto, molto importanti, nonostante che ufficialmente, Castillo ha vinto anche, c'è stato pure il parere delle organizzazioni non governative che hanno controllato come si è andato lo spoglio elettorale, però ricordiamo che in Perù, come in altre parti, diciamo, dell'America Latina, dai contadini, dalle province, il risveglio e il sostegno alla sinistra si è fatto sentire, mentre le capitali e le città sono a favore e sostengono questa Fujimori. Infatti i risultati elettorali l'hanno dimostrato, insomma, mentre dai campesinos, cioè nelle campagne, c'è stato un pieno sostegno a Pedro Castillo, nelle città metropolitane come Lima il sostegno è stato dato a Keiko Fujimori, che ricordiamo sempre essere la figlia del nippo hitleriano Alberto Fujimori. E tanto è vero che la signora K, come viene definita, sta esortando ancora i militari a fare, un colpo di Stato. E vediamo che ci sono state anche le dichiarazioni dell'ex capo del comando congiunto, Jorge Montoya Manrique, che, il quale ha un forte seguito nelle forze armate, seppure è un ex comandante in capo, ma questi hanno vari sostegni proprio di truppe militari, di truppe anche della destra fascista, proprio nelle aree metropolitane del Perù, specie nella capitale Lima. Infatti questo Jorge Montoya Manrique sta invitando, facendo appello alle forze armate contro il comunismo. E vediamo, e crediamo che questo clima caratterizzerà anche tutte le fasi elettorali in Brasile alle prossime elezioni. Però già sappiamo che Bolsonaro ha già iniziato da un po' di mesi a determinare il clima politico, come fece Trump con tutto l'appello che fece all'arcipelago neonazista suprematista negli Stati Uniti d'America. Diciamo, il segnale lo dà anche il fatto che Bolsonaro si sta giocando la carta di ospitare in Brasile le partite della Coppa America Latina, della Coppa dell'America Latina, per affascinarsi gli strati sociali popolari. E quindi ricordiamo anche che in Brasile abbiamo ancora le formazioni paramilitari degli Squadroni della Morte, e sta questione unire forme populiste, nonostante la tragedia di centinaia di migliaia di morti della pandemia, vediamo, giocandosi questo aspetto populista del calcio, congiuntamente, come abbiamo detto prima, le formazioni paramilitari delle Squadroni della Morte, anche di formazioni criminali nelle favelas, il biglietto da visita che sta cercando di dare Bolsonaro anche agli futuri scenari, ricordiamo fra 16 mesi ci sono le elezioni, risulta essere un biglietto da visita molto preoccupante. Ora rimettiamo un altro po' di musica. Ritorniamo tra minacce di golpe, repressione, presenza dei nostalgici all'interno dei vari governi degli stati latinos, permesso anche dallo sdoganamento di Trump, che Trump ha determinato un salto pericoloso, sdoganare tutte le vecchie formazioni politiche, personaggi legati alle peggiori torture, alle peggiori colpe di Stato, alle peggiori forme dittatoriali. E torniamo un po' alla repressione, con il drammatico elenco, se noi aggiungiamo le 23 morti della repressione, quindi tra cui un bambino, 2000 feriti nella recente repressione in Cile, in cui il paese è stato veramente sconvolto dalle grandissime manifestazioni, dove sempre, come abbiamo detto prima, la nuova gioventù, adolescenti, universitari, giovani, sono stati i principali protagonisti. Ritorniamo a quello che è avvenuto fino a qualche settimana fa in Colombia, in cui i morti sono 50 e i 2000 feriti, e sempre a causa della feroce repressione militare. E che queste morti, queste repressioni rappresentano il filo conduttore di quel che sta avvenendo nei vari stati latinos, nei quali, come abbiamo detto prima, i giovani risultano essere i principali protagonisti delle ribellioni. Quindi, facendo un minimo di sintesi, l'America Latina è una grande polveriera, il cui scoppio potrebbe incendiare le praterie di tutti i sud del mondo, compresa anche l'Europa. E a questo punto ci poniamo la domanda dell'imperialismo americano, con il nonno Biden, che con il motto "L'America è ritornata", la domanda che permetterà il nonno Biden l'America imperialista, permetterà che l'America Latina possa mettere in discussione il neoliberismo, visto che la politica estera tra Trump e Biden è tra la politica estera di Trump e di Biden c'è una continuità, e i primi segnali è chiaro, non fanno sperare che l'America Latina cominci in America Latina un percorso che porti all'autonomia dalle varie lobby e quindi dalle logiche colonialiste dello Stato Yankee. È chiaro che, per ritornare a noi, nella precedente trasmissione abbiamo approfondito la questione della Colombia. Gli ultimi dati parlano di 540 morti, in 24 ore di qualche giorno fa, che è il dato più alto dall'inizio della pandemia. Ricordiamo la Colombia. La Colombia è il 42,5% della popolazione in condizione di povertà e il 15,1% in povertà estrema. Questi sono dati ufficiali, per non parlare poi dei milioni e milioni di abbiamo 16 milioni di disoccupati. Quindi abbiamo tra chi disoccupati, sottoccupati, chi non è proprio registrato nell'elenco del lavoro, si arriva a un totale di 30 milioni di persone che sono senza entrata, senza entrati degni, e su quasi 49 milioni di colombiani. È chiaro che queste cifre sembrano così lontane e distanti distante anche da noi europei, ma se andiamo a fare i calcoli, come il 70% dell'America Latina non gode di nessun diritto, ricordiamo che neanche nelle nostre diciamo nazioni occidentali europee i parametri sono simili, e questi parametri uniscono i sud del mondo in America Latina, uniscono i sud del mondo dei paesi europei, compresa anche la nostra Italia. Quindi quel che possiamo dire è che queste ribellioni, questi scenari dell'America Latina, che poi tra l'altro noi abbiamo visto, è stato un periodo intervallato da tantissime ribellioni anche in altri stati, in Medio Oriente, ci sta anche il compagno Michele del collettivo Andala, che diciamo, ecco, in questo piccolo scorcio di scenario internazionale dirà la sua. Sì, Franz, in effetti tu con la tua analisi approfondita sull'America Latina e soprattutto sugli scenari anche golpisti, chiamiamoli così, come anche tu li hai definiti e come più volte durante questa trasmissione o comunque su Radio Asilo, insomma, abbiamo riportato, logicamente sì, come dicevi, potrebbero sembrarci lontani rispetto ai nostri standard di vita occidentali, europei, però in realtà non dimentichiamoci, lo accennavi prima, che per esempio ci sono alcune zone dell'Italia, della Grecia o anche della Spagna, diciamo del sud Europa, che in realtà mostrano indicatori macroeconomici e livelli di disoccupazione del tutto similari a quelli in altri paesi cosiddetti del terzo mondo. Quindi è chiaro che ovviamente ci sarebbero tantissimi motivi per cui ribellarsi, per cui rovesciare governi corrotti o semplicemente cercare di emanciparsi dalla lunga mano, dal lungo artiglio dell'aquila americana. Però è chiaro che, come dicevi, quello che avviene in Palestina, che avviene a Gerusalemme, dove per esempio pure un altro caso che è stato totalmente sottaciuto dai nostri media, così come quello di che sta avvenendo in America Latina nelle ultime settimane, dove addirittura alcuni media hanno parlato di disputa per le case a Gerusalemme Est, ma lì invece si tratta di vera e propria pulizia etnica, di un'opera di sostituzione etnica che rappresenta un crimine contro l'umanità, perché la polizia insieme ai coloni hanno iniziato a girare casa per casa proprio per espellere la popolazione palestinese. Questo per dire che cosa? Che in realtà c'è un filo rosso che congiunge tutti i sud del mondo e in qualche modo è proprio quello della lotta, perché come dicevamo pure nelle nostre riflessioni, insomma, privatamente, è chiaro che sì, è vero, i motivi per ribellarsi sono tanti, però quello che è difficile è riuscire a canalizzare questa rabbia, a canalizzare questa forza dirompente dei popoli, ma anche diciamo queste giuste rivendicazioni, proprio per evitare anche derive come quelle che si sono viste in seguito alle primavere arabe, dove per esempio è stato emblematico il caso dell'Egitto. Sì, è stato rovesciato il regime pluridecennale di Hosni Mubarak, però fondamentalmente quello che è successo dopo, con prima la presa del potere da parte dei Fratelli Musulmani, poi del golpista al-Sisi, al soldo degli americani, è chiaro che questo non ha determinato alcun miglioramento per le condizioni di vita oggettive della popolazione. È ovvio che queste storie, come dicevo, non sono solo legate a quel singolo paese, all'Egitto, al Perù, alla Colombia o alla Palestina, ma queste storie sono le nostre storie, quelle che viviamo ovviamente da un'altra prospettiva, anche noi nell'opulenza, diciamo, dei nostri paesi occidentali, dell'Unione Europea, dove però paradossalmente assistiamo al fatto che anche qui in Italia, in Europa, anche per gli autoctoni fondamentalmente è facile diventare tra molte virgolette negri, cioè con l'accezione che dava Malcolm X al termine, che non è un'accezione razzista ma è un'accezione proprio di identitaria, perché e lo vediamo tutti i giorni anche nelle nostre realtà, non solo nelle lotte sindacali che ci sono a Piacenza o in altri luoghi. È facile perdere il lavoro, trovarsi a vivere la marginalità e quindi a dover essere ancora di più ricattati. E allora a quel punto la domanda che sorge spontanea è: chi è il negro, chi è lo sfruttato? Perché questo negro, questo sfruttato, paradossalmente non hanno una razza, non hanno un colore, non hanno un'etnia, non hanno una lingua, perché siamo tutti quanti negro e sfruttato. Quindi ci sta questo caleidoscopio enorme di colori, di etnie, di lingue, anche di religioni, di usi e costumi, che identificano appunto tutti gli sfruttati della terra, che sono uniti da quel filo rosso di cui parlavo prima, che unisce la Palestina e passa per l'Africa, per l'Europa, fino ad arrivare in America Latina, in Oceania, in Australia, perché di fatto in questa epoca storica dove, grazie alla comunicazione di massa, il potere, il capitale, come lo vogliamo chiamare, riesce come dire, ad occultare, ad accamuffare la realtà, questo bisogno che scorre nelle vene dei popoli, proprio questo bisogno di rivolta, di ribellione. Però questi mezzi di comunicazione di massa ci danno anche la possibilità di poter sapere, di poter vedere quello che avviene in altri posti del mondo, non come qualche decennio fa, che magari occorrevano giorni, settimane, anche mesi per riportare la notizia da un continente all'altro. E oggi noi sappiamo che non esiste un posto della terra completamente pacificato, non esiste un posto della terra dove non ci sono conflitti o dove gli esseri umani hanno trovato, come dire, una loro dimensione di vita in armonia con i loro simili e con le altre creature, gli esseri viventi che popolano questo pianeta. Ed è logico che questa è una contraddizione, ma vabbè Lorenzo, stiamo sfociando in argomenti, diciamo, più di carattere filosofico, esistenziale, che nemmeno politico. Però è logico che queste sono delle contraddizioni con le quali io credo che dovremmo fare i conti tutti quanti, dobbiamo fare i conti tutti quanti, ognuno di noi, perché ognuno di noi vive questa contraddizione, e anche in maniera inconsapevole è la contraddizione che viviamo dalla nascita, cioè di questo continuo, di questa continua ambivalenza, di questo continuo dissidio che esiste con la natura, con le forze della natura, ma anche con i nostri simili, con gli animali, con l'ambiente, e che poi ovviamente si ripercuote, scusate il francesismo, in una vita di merda, in cui magari il bene più prezioso che abbiamo è proprio quello del tempo, e dove invece appunto il nostro tempo diventa un bene di cui non disponiamo noi, ma ne dispone qualcun altro, per mezzo appunto dello sfruttamento e dell'oppressione. E questo chiaramente, come dicevo, ha delle sfaccettature diverse a seconda della latitudine, a seconda del luogo in cui si vive. Però, ripeto, con le dovute proporzioni, è chiaro che quello che si vive in Palestina, quello che si vive in Sud America, non è molto diverso da quello che viviamo noi qui. Quindi mi è venuto in mente questo collegamento partendo proprio dal parallelismo, dal paragone tra gli indici macroeconomici di alcuni paesi dell'America Latina, soprattutto i dati di cui parlavi tu, Franz, legati alla disoccupazione, e quello che viviamo anche noi qui nell'opulenta Europa, dove erano dati dell'OCSE di un anno e mezzo fa, in alcune zone del sud Europa, del meridione, in alcune zone della Campania, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Puglia, in realtà ci sono alcuni indicatori macroeconomici che sono più simili a quelli dei cosiddetti paesi del terzo mondo che non a quelli del resto dell'Europa, del resto di Italia. Bellissimo contributo di Michela, anche perché abbiamo fatto un po' il giro del mondo, e magari mo mettiamo un altro po' di musica e poi parliamo pure di un'altra faccenda, ritorniamo in America, per cui non possiamo parlare dell'Etiopia, dell'Africa, però questo excursus, diciamo, di carattere internazionale, quindi internazionalista, ci può porre, ecco, ulteriore domanda a cui come compagne e compagni siamo tenuti a darci una risposta. Mettiamo un altro po' di musica. Perché tu bocca è ben grande e tu passa colora. Ya yo me enteré mulata. Mulata ya sé que dice. Fíjate bien que tú no dopo bel contributo di Michela del collettivo Andal, quindi questo nostro excursus internazionale ed internazionalista che effettivamente, ecco, ci pongono delle situazioni. Io prima all'inizio ho posto il problema, la via messicana in Italia, facendo l'esempio di questi dei compagni che, diciamo, dei lavoratori licenziati che aggrediti da, diciamo, chiamiamoli gli squadristi del padrone, ci fanno ritornare indietro un po' a dei climi che vedevamo noi dall'Italia abituati grazie alle conquiste diciamo a mantenere dei diritti, delle dignità, diciamo noi grumiri storicamente le abbiamo sempre dati noi, ora invece sono i grumiri assoldati e squadristi assoldati dai padroni. E in un contesto, ecco, di modernità, i draghi, lo sviluppo, siamo tutti bravi, tutti belli, questo, i recovery fund, eccetera, eccetera, ecco il grandissimo imbroglio. Quello che sta succedendo in Europa con i recovery fund a livello europeo, eccetera, eccetera, i dettami del Fondo Monetario Internazionale, sono simili a quello che sta succedendo in America Latina. E questo ci pone delle domande, perché noi abbiamo uno scenario internazionale in cui vediamo una destra che, diciamo, ha una sua forza ancora in America Latina, con i vari presidenti, apparati militari che stanno sempre là e che pongono sempre la spada di Damocle su ogni forma di, come devo dire, movimento di modifica dello stato delle cose presente. In Europa abbiamo delle destre, diciamo, che cominciano a pesare in termini sia di apparati militari, trasversali, sostegni e via dicendo, e ci poniamo l'altra domanda. E con l'America ritornata di Biden, ci vogliamo porre anche la domanda politica, e tutto ciò, questi movimenti di lotta, quindi noi abbiamo visto che durante il periodo delle lotte, dei conflitti negli Stati Uniti d'America, il Black Lives Matter con tutte le mobilitazioni dal cuore della mela anche agli stati, diciamo, limitrofi degli Stati Uniti d'America, questo scontro di classe tale da dire e far affermare che negli Stati Uniti d'America ci sia una sorta di guerra civile di bassa intensità. Ora, la domanda politica, questo movimento, ecco perché bisogna sempre attenzionare le politiche imperialiste americane, il nostro ruolo rispetto a questo grande ampio movimento che negli Stati Uniti d'America potremmo paragonare a un movimento dell'autonomia operaia sociale degli anni 70, con tutto il grande dibattito che c'era all'interno. Come si porrà il nuovo questa, ecco, qualcuno ha definito le ONG dei conflitti, dei movimenti e delle organizzazioni di opposizione americane. E come si porrà questo movimento rispetto agli scenari politici che almeno in politica estera sembrano in continuità da Obama, Trump e Biden, che continua la sua opera di imprimatur dell'imperialismo americano in Europa, in Africa e, abbiamo detto, punto interrogativo, l'America Latina e anche nel Medio Oriente. Come si porrà? Noi come dobbiamo porci rispetto a questo scenario? Queste sono tre dinamiche politiche che sono molto importanti. Ecco, dopo questo excursus internazionale abbiamo parlato dei poteri, del potere imperialista e colonista, dei vari poteri. abbiamo parlato di questa, come devo dire, che nulla è stato, anche se ci vogliono far sembrare che è tutto pacificato, però stiamo vedendo che di pacificato non ci sta nulla, sia in piccole situazioni come ecco, questi blocchi delle nostre piccole, dei centri, dei grandi centri di distribuzione del nord Italia, sono piccole sacche di resistenza. Però ci dimentichiamo che queste piccole sacche di resistenza, insieme a un movimento politico antagonista, quindi con la contaminazione degli studenti, delle fasce giovanili, negli anni 70 determinò un grandissimo forma di contropotere operaio sociale che fu in grado di ridurre le forme di ristrutturazione. La domanda che ci poniamo di fronte a questi scenari prossimi che ci attendono, recovery fund, il grande imbroglio delle varie transizioni energetiche che poi alla fine si traducono in inceneritori, centrali termoelettriche, ponte sullo stretto di Messina, ulteriore precarizzazione e povertà degli strati sociali. Ecco, questa è una domanda, mo è chiaro che tu che ne pensi, Michele? Dobbiamo aggiungere qualche altra domanda oppure non lo so? Beh, Franz, io direi che per questa trasmissione, anche perché siamo arrivati addirittura ad arrivo, penso che possiamo lasciare in sospeso questi argomenti che sicuramente emergeranno dirompenti nel corso delle prossime trasmissioni, anche perché gli interrogativi che tu sollevi sono interrogativi evidentemente complessi e chiaramente nessuno di noi può tirare i conigli dal cilindro. Sicuramente staremo a vedere quello che avverrà, senza aspettarci niente di buono, perché come dicevo prima, per i nostri governanti noi siamo tutti quanti dei negri, degli schiavi, quindi alla fine l'idea di fondo è sempre quella di guardare con attenzione quello che avviene attorno a noi e anche cercare di presidiare il più possibile tutti i luoghi del conflitto, i luoghi di lavoro, le strade, le università, insomma qualunque luogo dove si possa in qualche modo mobilitare questo confronto, questo conflitto. Allora ci lasciamo con una speranza, non lo so, che una autonomia sociale, il nuovo protagonismo di un'autonomia sociale che, come stiamo vedendo, si sta determinando in varie parti del mondo, che si possa riproporre anche in Italia, che darebbe veramente un grande supporto a tutta una serie di tematiche internazionaliste. Lasciamoci con questo augurio. È chiaro, sono d'accordo, Michele, dobbiamo approfondirle queste tematiche perché se no non la finiremo più, però lasciamoci con questo augurio che di un ritorno dell'autonomia sociale come unica forma di protagonismo delle classi subalterne, in grado di modificare, se non di modificare, di ridurre i danni del neoliberismo. La prossima, compagne e compagni.